La ragione di questo sciopero ormai quasi fatichiamo a raccontarle perché sono 6 mesi che va avanti lo stato di agitazione di questi lavoratori, ma la principale è innanzitutto la volontà dell'amministrazione della città metropolitana di Bologna, in particolare il sindaco metropolitano, quindi di esternalizzare la funzione fondamentale della progettazione e manutenzione delle strade provinciali. Pensa di oltre 100 lavoratori che sono in gran parte tecnici specializzati di quel settore, si va ovviamente da progettisti ai cantonieri sulle strade e senza aver ad oggi fatto alcun confronto su qual è il destino professionale e retributivo di questi lavoratori. Ma non c'è solo questo, c'è un'involuzione organizzativa di questo ente, che è un ente che dovrebbe sviluppare anzi le sue funzioni per garantire una distribuzione dei livelli di servizio pubblico nell'area metropolitana il più uniforme possibile, che non veda differenze, insomma, per banalizzare, ma per esemplificare, tra un cittadino che abita a Galliera, uno che abita a Camugnano e uno che abita invece a Bologna. Bene, questo ente sta essendo depotenziato, depauperato, certo da normative nazionali, ma sulle quali la politica nulla sta dicendo, né quella locale né quella nazionale, ma anche da scelte di trasferimento di responsabilità. Si pensi al tema della polizia, ex polizia provinciale, attualmente polizia della città metropolitana di Bologna, che è l'unica polizia provinciale in tutta l'Emilia-Romagna che non ha un comandante, e adesso il sindaco decide di nominare comandante il comandante del comune di Bologna, ma attenzione al 10% del suo tempo. E quindi, come dire, per il resto del 90% del tempo servirebbe un'altra posizione che però non viene istituita adesso e chissà quando lo sarà. Quindi abbiamo una situazione e infine, ma giusto per citare un ulteriore elemento, la città metropolitana di Bologna è stato un esempio negli anni scorsi, fino a 2 anni fa, anche nell'organizzazione di strumenti innovativi, come per esempio il lavoro agile, esempio a livello nazionale. Ebbene, questo è stato totalmente cancellato, il lavoro agile ridotto a benefit, distribuito un giorno a settimana su tutti i dipendenti, senza alcun tipo di interrelazione organizzativa reale. Questa è la serie di motivazioni, detta molto in breve, che ci porta purtroppo, perché né i lavoratori né tantomeno le organizzazioni sindacali hanno piacere di arrivare all'estensione del lavoro, allo sciopero di domani. Oltre alle questioni di merito, pare esserci neanche una di metodo, cioè il confronto con le parti sindacali prima di assumere delle decisioni. Assolutamente sì, non ci fossero, diciamo, scelte che hanno, come dire, impatti così forti, basterebbe solo questo, diciamo, a motivare questo stato di mobilitazione. Sostanzialmente, fino a che non è stato attivato lo stato di agitazione nei mesi scorsi, non c'è stata alcuna relazione sindacale, dopodiché si sono aperti dei tavoli nei quali sostanzialmente non è stato sviluppato nessun reale confronto, nel senso che è stato dato modo di parlare, ma a un certo punto, quando si è arrivati alle decisioni, queste sono state annunciate, dicendo anche che non erano in alcun modo discutibili. Chiaramente non è un metodo di partecipazione che consente, da un lato ovviamente, di tener conto delle condizioni lavorative dei lavoratori, ma dall'altro, soprattutto, dal nostro punto di vista, non consente di assumere decisioni migliori, perché le decisioni migliori si assumono se si ascoltano tutte le parti. In definitiva, come potremmo definire l'operazione che sta avvenendo sulla città metropolitana? Cos'è? Un tentativo di accentrare i poteri sul capoluogo, lo smantellamento della città metropolitana stessa? Cos'è? Ma guarda, purtroppo le due cose che hai detto sono quelle che iniziamo ormai a pensare in maniera anche argomentata e con sicuramente si parte da un'idea che va al contrario rispetto a quello che era stato sviluppato nel momento in cui la città metropolitana di Bologna è stata costituita. La città di Bologna, quando è stata costituita, ha sviluppato uno statuto che andava al di là di quello che prevedevano le norme nazionali, proprio verso una funzione di sviluppo di tutta l'area metropolitana e di garanzia che i servizi pubblici nell'area metropolitana avessero un livello uniforme di accesso. È chiaro che depotenziandola si va esattamente nella direzione che stai dicendo. Di fatto ci sono delle aree, a partire dal comune capoluogo, che sono maggiormente presidiate perché hanno ovviamente anche in termini di possibilità, diciamo, di azione sia politica che organizzativa molto alta, e altre che rischiano ovviamente di essere dimenticate. E questo ovviamente va esattamente al contrario della funzione di un ente come quello della città metropolitana.